Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Ci sono dei temi e degli argomenti, delle immagini anche che ricorrono spesso nei romanzi dell'autore di cui vi parlo oggi. Il mare, la pesca, il ciclismo, la bicicletta, comunque. Una certa nostalgia di un tempo passato, di quando si viveva forse con un ritmo e in un modo diverso. Ma soprattutto ci sono sempre personaggi che sono diversi dagli altri e quindi sono un po', come dire, una cellula estranea quasi rispetto al resto della società, e ci sono sempre molte relazioni d'amore, d'affetto, amore inteso a 360 gradi, che non passano attraverso la leziosità, le parole, ma a volte passano attraverso parole anche brusche, gesti bruschi che però esprimono veramente un affetto profondo. Ecco, questo è quello che penso di Fabio Genovesi, lo scrittore che abbiamo ospite oggi e che in libreria con il romanzo Il mare dove non si tocca, pubblicato da Mondadori. Fabio, effettivamente tutti questi elementi che abbiamo detto ritornano un po' in questo tuo ultimo romanzo. L'avevamo già visto in Chi manda le onde, che era arrivato finalista al premio Strega, ma anche in altri tuoi romanzi. Io ho avuto l'impressione che questo romanzo pubblicato da Mondadori sia un po', come dire, la summa di tante tue cose, come se fosse il tuo romanzo a 360 gradi, è una mia impressione? Forse è una tua impressione, ma è anche la mia. Quindi, ah, ok, quindi siamo d'accordo. Sono felice che mi dici così. Io, quando ho cominciato a scriverlo, come sempre non avevo idea di cosa avrei scritto, però mentre andavo avanti mi è sembrato che fosse così, che fosse proprio il romanzo mio che forse chiude qualcosa e apre qualcos'altro, e che ci fosse dentro proprio tutto quello che volevo e che magari mi ero allenato a dosare qua e là. E ho detto, il famoso la va o la spacca, forse è spaccato, non lo so, però spero che vada. Ecco, il protagonista di questo romanzo è un ragazzino, un bambino che si chiama Fabio, guarda caso come te. Tanto non ti farò la domanda se è autobiografico, non ci interessa, insomma, perché poi gli scrittori, lo ripeto sempre, al cacciatore di libri mettono sempre qualcosa di sé nei romanzi, quindi questa pruderia ci interessa poco. Il protagonista è Fabio, questo bambino, è un romanzo di formazione e lo vediamo nel giro di 2-3 anni della sua vita, insomma. Ha una caratteristica che chiaramente ha due genitori come tutti, ha più o meno 4 nonni, ma in realtà ne ha molti di più, perché ha i fratelli di suo nonno, che sono tutti single, diciamo così, quindi senza figli, senza nipoti, e che nutrono nei suoi confronti un affetto incredibile, insomma è il piccolo della famiglia. E tutti vogliono passare del tempo con lui, facendo delle cose però insolite per la sua età. Cosa combinano questi altri nonni, che poi lui chiama zii a un certo punto? Sono dei veri e propri nonni, nel senso che gli vogliono bene come dei nonni veri. Del resto una famiglia di 11 uomini, da cui viene un nipote solo, per forza questo nipote si becca tutto l'affetto. Ed è proprio così, la nonna a un certo punto, visto che si litigano Fabio e il nipote, appende a un platano un foglio con i giorni, lunedì con lo zio Aldo, martedì con lo zio Arno. Fanno i turni. Quelli i turni. E l'unico giorno che manca è appunto un giorno libero per Fabio, per passarlo magari coi coetanei, insomma, che potevano fargli male. Sono tutte però persone che hanno vissuto un'altra epoca e fanno cose che oggi sembrano di un'altra epoca. Vanno a caccia, a pesca, vanno a cercare i funghi, vanno a rubare le pigne, fanno un po' di queste cose, che erano tutte cose, secondo me, normalissime e ancora oggi normalissime per l'umanità, ma non più per l'uomo di oggi. Ecco, quello che dicevo all'inizio, da parte tua c'è sempre un po' questa nostalgia di un tempo e di un ritmo passato. Perché? Sì, io cerco sempre di scrivere di qualcosa che non sia veramente nostalgia, cioè che non sia come era bello una volta, ma come sarà bello domani. Però ricordandoci com'era una volta. Non voglio mai pensare che abbiamo sbagliato strada e siamo finiti in un vicolo cieco e dobbiamo tornare indietro. Non credo che bisogna tornare indietro. Però magari in questa strada che abbiamo preso, aprendoci il cammino con colpi di macete nella giungla, riuscire anche a ricordare certe cose e, non dico tornare lì, ma andare in una direzione che non si scorda di quelle cose lì. Allora, questo giovane scrittore ha scritto appunto questo romanzo di formazione molto classico, diciamo, perché comunque ripercorre tutti gli aspetti fondamentali della vita di questo bambino. Certo, ha questa stranezza di questi nonni che lo portano chi a pesca, chi a cercare funghi. A un certo punto lui si definisce fungoman, giusto? Perché ha la capacità, essendo daltonico, noi daltonici non vediamo i colori bene, cioè magari il blu e il viola li vediamo uguali, il rosso e il verde li vediamo uguali, ma per qualche misterioso motivo colori molto simili agli occhi delle persone normali li vediamo diversissimi. E quindi il colore di un fungo nel bosco per Fabio è qualcosa di evidentissimo, non si mimetizza, diventa visibilissimo e quindi viene usato come cane da tartufi per andarli a cercare. Quindi si capisce insomma che questo bambino Fabio fa tante cose, gioca a tante cose, ma poco con i coetanei, fa delle cose vintage, potremmo definirle così. Ecco, un'altra figura molto bella in questo romanzo è la figura del papà di Fabio. Papà di Fabio è un tuttofare, è uno che aggiusta costantemente tutto. Devo dire, in questo mi ha ricordato mio padre, che veramente costruisce mobili, ripara cose di idraulica, di elettricista, insomma fa tutte queste cose qui. Quindi si capisce che c'è anche da parte dell'autore un amore per la cultura del fare, perché questo è un personaggio molto positivo. Per il padre di Fabio però non si tratta solo di etica del lavoro, cioè quel fare segna proprio la sua identità profonda. Sì, e credo che sia il modo sano per vivere. È anche un libro che è un'ode alle persone della mia famiglia e alle persone di questa nazione che io più amo, cioè gli elettricisti, gli idraulici, i muratori, i camionisti, i benzinai, che siamo noi. Una cosa che offendeva sempre mio padre e offende me è quando senti dire: ora provo a farlo studiare il ragazzo, se non, poi non è bravo lo mando a fare l'idraulico. Ma fare l'idraulico è difficilissimo. Come se fosse un ripiego. Sì, e invece non è così. Saper fare l'idraulico è difficilissimo, saper fare l'elettricista. Ci vuole una grande conoscenza e un talento. Non tutti ce l'hanno, pochissimi ce l'hanno, anzi, e è un'ode a quelle persone lì. Io una cosa che non sopporto è anche persone che conosco evolute, molto, molto coscienti, molto consapevoli, molto progressiste, che ti dicono: ieri sono andato dal dottore, poi c'era l'avvocato, il sindaco, e ora devo andare dall'omino delle fotocopie, o l'omino che fa la benzina. Sì, una diminuzio. Ecco, non sono omini, sono gente che ti fa un culo così se gli dici omino. Almeno il mio zio avrebbe fatto così, avrebbe fatto bene. E allora ci tenevo a scrivere una cosa che fosse anche un'ode a quegli omoni lì. E si vede, si sente leggendo il tuo romanzo. Grazie. Continuando a parlare di questo rapporto padre-figlio, a un certo punto, insomma, come capita spesso nella vita, i figli finiscono per fare da genitori ai propri genitori. In genere questo però accade con l'avanzare dell'età. A Fabio lo possiamo dire, perché comunque succede dalla metà in poi del romanzo, insomma nell'ultima parte del romanzo, Fabio dovrà fare un po' il papà di suo papà, perché insomma ha una malattia, lo diciamo, entra in coma e poi deve reimparare a vivere, a fare le cose normali, a riconoscere le persone, a lavarsi i denti, a mangiare, eccetera. Questa cosa però avviene nella vita di Fabio come se fosse una cosa naturalissima. Cioè Fabio non è scioccato, con naturalezza si avvicina a questo papà che deve imparare di nuovo la vita e inizia ad affiancarlo. Non hai voluto creare insomma uno shock in questo rovesciamento dei ruoli? No, perché mi piaceva che fosse tutto nella natura delle cose. Cioè ci sono persone a cui succedono le cose e si spengono, oppure ne fanno una tragedia come se non ci fosse niente da fare. In realtà c'è sempre qualcosa da fare, e cioè fare. Quello che puoi fare, che può essere anche molto poco, va fatto. E credo che passiamo spesso la vita in attesa che qualcuno arrivi a aiutarci e a insegnarci le cose, a insegnarci a vivere. Il modo migliore per imparare a vivere è smettere di aspettare quelle persone e aiutare qualcun altro. Non aiutare, vado a fare il volontariato, che è importante, certo, che quello però è troppo facile. Intendo proprio nella vita, nelle persone che ci stanno accanto. Piuttosto che chiedere a tuo padre se ti aiuta a cambiare una ruota, se te la cambia lui, mi fa vedere come si cambia e cambiarla insieme a lui. I genitori col tempo cambiano, col tempo invecchiano e finisce che diventano i figli tuoi. E questo è strano, mi sta succedendo e mi fa un effetto molto strano, però è anche bello, perché è il modo per ridare a loro un pezzetto di tutto quello che hanno dato loro a noi. È una forma di restituzione. Sì, è così. Mio padre, che faceva l'idraulico, poteva, quando ero piccolo, ha avuto un'occasione per prendere un lavoro e diventare un idraulico in proprio e fare un sacco di soldi negli anni 80 a Forte dei Marmi, tutto in nero, penso, cioè, quindi figurati i soldi che potevano venire. Ha capito che avrebbe avuto molto meno tempo da passare con me, tutti i giorni noi andavamo a pescare insieme, e lui mi ha detto: che ne dici se restiamo poveri ma si va a pescare lo stesso? Io avevo 6 anni, figurati, ho detto: ma certo, chi è il pazzo che direbbe diversamente? E per questo regalo che mi ha fatto, io ovviamente ora tutto quello che posso fare lo faccio, e non sarà mai la metà di quello che ha fatto lui. Ecco, tutta questa tenerezza, questo amore, devo dire che emerge da queste pagine, al di là dei singoli episodi poi che tu racconti, perché ne accenni ad uno simile. Ho pensato ad una delle scene di questo romanzo, quando il papà di Fabio, che ricorda di quando lui da piccolo era povero, insomma non poteva mai mangiare il gelato, voleva il gelato, e la cosa che gli piaceva di più adesso da adulto era comprare quel gelato alla crema e far sì che suo figlio potesse mangiarlo, anche se a suo figlio non piaceva, però certo. Poter dire: caspita, do a te quello che io non ho potuto avere. Sì, è proprio quella cosa, è che è una cosa, appunto, lui desiderava questo gelato, però il gelataio che passava con l'ape car a venderlo voleva, per dargli un gelato, o i soldi o un uovo per fare il gelato. Lui il giorno del suo compleanno lo vede, gli chiede: ah, il tuo compleanno, che bello, lo sai cosa ci vorrebbe il giorno del tuo compleanno? Un bel gelatino. E lui dice: sì, magari, c'hai fame? Sì. C'hai un uovo? No. E allora mi dispiace, e se ne va. E che nel mondo succedano queste cose mi sembra un'ingiustizia quasi più grande di quasi tutte quelle che succedono. Mi sembra sano che invece che poi dire voglio diventare ricchissimo e schiacciare gli altri e fare in modo voglio che gli altri... Voglio che mio figlio sia felice. Sì. A proposito però del fatto che Fabio vive, gioca, soprattutto passa molto tempo con questi tanti nonni, questi tanti zii, emerge anche il tema della diversità, no? Perché comunque è un bambino diverso rispetto agli altri, vive anche la scuola in maniera diversa. Nei tuoi romanzi c'è sempre qualcuno di diverso. Nel precedente, Chi manda le onde, c'era la bambina albina, per esempio, che invece amava stare al mare e al sole, che aveva questo rapporto di tenerezza e di amicizia con questo bambino che veniva dalla Bielorussia. Insomma, ci sono sempre questi bambini, sono spesso piccoli, che sono un po' fuori dalle regole. Come mai? Quando vado a fare degli incontri nei licei, di solito nelle scuole più superiori, un po' più grandi così, ma anche alle volte anche più piccoli, li vedo subito dentro, possono essere in 500, 600, lo vedo subito quali sarebbero quelli in assonanza con me, dico: ok, abbiamo avuto la stessa infanzia, so cosa stai passando. Mi piacciono, e credo che raccontare persone strane sia appassionante, mi piace da morire, perché mi dicono tutti: che personaggi strani, e dopo un attimo mi dicono: quella cosa lì la facevo anch'io, quello sono io. Solo che quello che ci rende strani, cioè unici, ce lo teniamo un po' per noi, nascosto, no? E facciamo solo vedere la parte diversa, quella che la società accetta. E allora mi piace credere e vedere che siamo tutti strani, però quando lo vediamo negli altri è strano, quando lo sentiamo in noi lo nascondiamo, ma alla fine è quello che siamo tutti. Insomma, sei stato un bambino strano. Sì, ma come tutti, credo. L'avete capito, in questo romanzo c'è tanto effettivamente della vera vita di Fabio Genovesi, ma non ci interessa sapere cosa è vero, cosa non è vero, cosa è inventato, cosa è verosimile. Grazie. Questo è un romanzo di formazione, un romanzo un po' vintage, di atmosfere proprio accudenti. Abbiamo detto: grazie. Non c'è niente di lezioso, non c'è niente di sdolcinato, ma il lettore secondo me si sente un po' abbracciato, come si sente abbracciato Fabio da tutti questi nonni, questi zii e dalla sua stramba famiglia, insomma. Che meraviglia, grazie. Grazie a Fabio Genovesi, ora in libreria con Il mare dove non si tocca, pubblicato da Mondadori. A fra poco. Il cacciatore di libri. Una donna e il suo amante vogliono uccidere il marito di lei, l'amante della donna e il fratello del marito. Tutto questo viene osservato e narrato da un punto di vista particolare: il feto che la donna, quasi al termine della gravidanza, porta in grembo. È la trama dell'ultimo romanzo dell'inglese Ian McEwan, Nel guscio, pubblicato in Italia da Einaudi con la traduzione di Susanna Basso. McEwan è autore di romanzi come Cortesia per gli ospiti, Bambini nel tempo, L'amore fatale, Espiazione, Miele, alcuni dei quali sono anche diventati film. Del nuovo romanzo, Nel guscio appunto, McEwan ci aveva parlato tempo fa al Cacciatore di libri, prima che fosse appunto pubblicato. Potete ritrovare l'intervista su radio24.it. Ora però che è stato pubblicato possiamo scendere nei dettagli. La voce narrante, dicevamo, è il feto. Un feto che ha già la sua personalità e per alcuni aspetti la sua concezione del mondo. Si rende conto che la madre, Trudy, e suo zio Claude, amante della donna, vogliono uccidere suo padre, ma è impotente, chiuso com'è appunto nel grembo materno, non può fare nulla per evitarlo. Il romanzo è un po' un noir, un po' un gioco di prestigio, un gioco di specchi, ed è anche un romanzo pieno di riflessioni filosofiche sulla vita e sugli esseri umani. Abbiamo incontrato Ian McEwan in occasione del premio letterario Bottery Lattes Grinzane, assegnato allo scrittore inglese per la sezione La Quercia, una sorta di premio alla carriera. Ecco com'è nata in lui l'idea di raccontare la storia dal punto di vista del feto. Sentiamo McEwan con la traduzione di Raul Resta. It began when I was sitting talking with my